niente, non ne capisco niente, di cosa veramente da farmi tarocca. Bestia sei, io ti ripeterò, ripeterò. Al suono del tamburo, si comincio a marciare. E cosa da creder? Cattedra mai secato. Yeah. pianto. Nulla vogliono i tuoi preghi, ubbidisci e pensa intanto che punirti io ti saprò, io ti saprò, io ti saprò. E vivo già lo sorriso, e mi farmi, e che farmi, io non so. E che farmi, io non so. Io la voglio seguitare. No, signore. Sì, signore. Non si parta. E si parta, e si parta così può. Non si parta così può. E si parta così può. Zitto, zitto, m'ascondo qua. E zitto, zitto, m'ascondo qua. Che precipizio, che gran rovina, contro costoro, contro rosina, soffrir non posso tal crudeltà, tal crudeltà. Sento rumore, qui non sto bene. Farmi udire gente che viene. Voglio nascondermi presto di là. Soccorso, aiuto! Ahimè, son morto! La vita in grazia! Non mi uccidete! Ma voi che fate? Con chi l'avete? Perché tremate? Questa è pazzia! La pressione, la fantasia, luce e non sbaglio, non ve che dire. Luce e non sbaglio, non ve che dire. Oh, e timore, sento le